Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. È italiano il primo sistema per la neuroriabilitazione robotica a ottenere le certificazioni necessarie per essere usato sia in ambiente ospedaliero che in ambiente domestico. Insomma, dopo il robot da cucina e il robot aspirapolvere, non è escluso che tra i primi robot che entreranno nelle case della gente ci saranno quelli deputati ad aiutare chi ha bisogno di riabilitazione dopo un trauma oppure dopo un ictus. Ed è precisamente questo il caso di ICON, nato dalle competenze maturate in oltre 10 anni di ricerca applicata all'interno del laboratorio di robotica biomedica e biomicrosistemi dell'Università Campus Biomedico di Roma. ICON è il primo prodotto di ICAN Robotics, che a sua volta è il primo spin-off dell'Ateneo Romano ed ha appena ricevuto il marchio CE medicale dal Ministero della Salute. Ne parliamo con Dino Accotto, professore di bioingegneria appunto del Campus Biomedico di Roma e cofondatore di ICAN Robotics. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, se intanto ci descrive questo oggetto. Sì, l'ICON è un robot compatto che può essere appoggiato su un normale tavolino di casa ed è dotato di un braccio robotico che termina con un'impugnatura che svolge un po' la funzione della mano del riabilitatore, quindi che viene impugnato dal paziente per svolgere l'esercizio. Quindi c'è questa specie di braccio robotico con un'impugnatura e poi c'è anche uno schermo di fronte alla persona, no? Mentre si appunto tiene in mano questa impugnatura, si interagisce con quello che appare sullo schermo. Come funziona? Esatto, lo schermo propone dei videogame interattivi, l'obiettivo è quello di indurre il paziente volontariamente a svolgere dei movimenti. Nella neuroriabilitazione la ginnastica viene fatta dal cervello, quindi si tratta di movimenti volontari e sono presentati come dei videogame di fatto. Quindi muovendo questa impugnatura il paziente deve svolgere delle azioni, no? Deve fare dei punti, diciamo, con questa sorta di videogioco. E come entra in gioco questo braccio robotico? Il braccio robotico, nel momento in cui il paziente svolge autonomamente l'esercizio, che potrebbe essere ad esempio segnare un gol virtualmente sul display, memorizza tutto ciò che avviene, quindi forze e movimenti. Quando invece il paziente ha bisogno di un aiuto, il robot interviene applicando dei campi di forza che guidano il movimento verso il suo completamento. E il livello di assistenza si adatta allo stato del paziente, quindi man mano che il paziente recupera funzionalità, il robot interviene sempre meno e continua a registrare ciò che avviene. Ecco, quali sono i vantaggi della neuroriabilitazione robotica rispetto a quella tradizionale? I vantaggi sono essenzialmente tre. Il primo vantaggio consiste nel fatto che il robot consente di fare una terapia intensiva. Ricordiamoci che stiamo parlando di ictus o comunque di lesioni del cervello, del sistema nervoso centrale. Per indurre il cervello a ricablarsi, a recuperare funzioni, sono necessarie migliaia di ripetizioni, di movimenti che devono essere volontari. E questo non può essere fatto in modo agevole da un terapista umano, perché richiede molto impegno, molto tempo, ripetibilità, resistenza alla fatica. Infatti io penso anche solo al fatto che probabilmente poi dovremmo riabilitare il riabilitatore se passasse tutto il giorno a fare movimenti di questo genere. E veniamo al secondo vantaggio. Il secondo beneficio è che la macchina è un robot, memorizza tutto ciò che avviene, quindi misura le forze, misura gli spostamenti e quindi quantifica la qualità del movimento e misura, come se fosse un termometro, il recupero del paziente e si adatta per stimolare questo recupero. Il terzo vantaggio è che si tratta per la prima volta di una macchina che può essere usata anche a casa del paziente e questo chiaramente induce dei benefici in termini di qualità della vita. Non è necessario andare in ospedale o in clinica, è possibile fare una terapia efficace a casa propria, quindi con un grosso sgravio di logistico quantomeno anche per i familiari. Dunque, avete venduto il vostro primo robot a una clinica di Parigi. Adesso come pensate di organizzare, insomma, lo sviluppo dello spin-off? Sì, l'Icon è disponibile in due versioni, una prima versione per ospedali e cliniche, una seconda versione che invece è a disposizione degli altri operatori della riabilitazione, ad esempio i fisioterapisti, che potranno accedere all'Icon e potranno portarlo come operatori della sanità a casa dei pazienti. Una specie di forma, diciamo così, di leasing. Comunque è un oggetto che viene usato sempre con la mediazione di un professionista della salute. Non è una cosa che ci si compra, ci si porta a casa e si fa nei videogiochi, appunto, no? Esatto, si tratta comunque di una macchina per l'erogazione di una terapia e quindi naturalmente è necessario che ci sia la supervisione di un professionista del settore. Va bene, grazie, grazie Dino Accoto. Grazie mille. È tutto anche per questa sera, come sempre appuntamento a domani.